giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Trieste rissa in serata a colpi di coltello sul molo Audace tra un gruppo di afghani e uno di pakistani, a scatenarla una richiesta di soldi e prestazioni sessuali. 4 i feriti. Fermate dai carabinieri 3 persone sospettate di avere rapinato in luglio una sala slot a Remanzacco. Travisati da Passamontagna, avevano minacciato gestori e clienti. Il Friuli Venezia Giulia è la seconda regione in Italia dopo il Trentino per dimensioni delle imprese artigiane in edilizia. Le province di Udine e Trieste e i primi posti della classifica provinciale. La tessera regionale della benzina va in pensione, chi ce l'ha può ancora usarla, ma non ce ne saranno più di nuove. A sostituirle un codice QR che si scarica da internet. Punta a ridurre degrado e microcriminalità il progetto di riqualificazione urbana pensato per Piazza Goldoni e presentato questa mattina dal Comune di Trieste. Aumenta l'interesse per le carte da gioco, considerate anche una forma di espressione artistica. A Codroipo una mostra di quelle utilizzate storicamente in regione dalle triestine alle sappadine. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Francesca Terranova. In apertura, un nuovo episodio di violenza accaduto ieri sera a Trieste. 4 giovani pakistani sono stati aggrediti con coltelli sul molo Audace da una quindicina di afghani che li avrebbero circondati pretendendo denaro e prestazioni sessuali. Sono stati accoltellati nel corso di una rissa al Molo Audace. Attorno alle 22 una banda di 15 afghani ha ferito 4 persone di origine pakistana. 2 sono finiti all'ospedale. Hanno rifiutato prestazioni sessuali e di consegnare il denaro. Tra di loro c'era anche un minorenne del 2007 che per chiedere aiuto si è trascinato fino alla questura. La polizia l'ha trovato riverso a terra e ha provveduto a chiamare l'ambulanza che l'ha trasportato al pronto soccorso. La ferita al torace non è grave e non è in pericolo di vita. Gli agenti della polizia hanno poi scoperto che all'ospedale di Kattinara si era presentato un altro giovane pakistano, maggiorenne, con una ferita profonda e grave ad un polmone. Aveva raggiunto l'ospedale in taxi. Nemmeno lui è in pericolo di vita. Una volta stabilizzati, 2 richiedenti asilo hanno raccontato agli inquirenti l'accaduto. Ultimamente sono frequenti gli episodi di violenza giovanile legati a situazioni di disagio, di mancanza di inclusione, che hanno per protagonisti non solo migranti, precisa il direttore della Caritas di Trieste, Giovanni Lamanna, ma anche stranieri e spesso anche italiani in situazioni di disagio. Tante sono le organizzazioni che stanno monitorando la situazione per riflettere insieme sulle soluzioni, ma c'è bisogno di una regia comune, ha puntualizzato Lamanna. Non prendersi cura delle persone vuol dire esporsi a situazioni che poi finiscono sui giornali in cronaca per episodi di violenza. Tutti quanti sono interessati dal bene di questi ragazzi, è bene che riflettano e individuino le cause che portano a questa violenza. Trieste, Vaciuti, GR Friuli Venezia Giulia. I carabinieri hanno fermato 3 persone sospettate di avere rapinato una sala slot a Remanzacco e una a Silea in provincia di Treviso nella notte fra sabato 27 e domenica 28 luglio. In entrambi gli episodi i malviventi, travisati da Passamontagna, avevano agito con picconi ed altri strumenti agricoli e da cantiere, minacciando gestori e clienti. Nel trevigiano il bottino era stato di circa 1.000 euro, in Friuli con tanti ricavati erano invece 1.500. Dopo le rapine, i 3 si erano dileguati a bordo di un'automobile di colore scuro. È stata trovata stamattina a bordo strada da un passante un'anziana di 80 anni deceduta dopo essere stata investita mentre percorreva in bicicletta la strada che da Porto Gruaro porta a Cordovado, in provincia di Pordenone. Sull'episodio di omissione di soccorso stanno indagando i carabinieri, analizzando anche le videocamere che si trovano sul tratto della strada provinciale che la donna stava percorrendo. Il Friuli Venezia Giulia segna, si avvicina a un record particolare. È seconda solo al Trentino per dimensioni delle imprese artigiane del settore edile. Imprese artigiane fra le più grandi in Italia per numero di addetti, occupazione in aumento, ma sempre maggiori difficoltà nel reperire manodopera qualificata. Colpa anche della pandemia che ha determinato una fuga di operai specializzati provenienti dall'est Europa. È la fotografia del settore dell'edilizia in Friuli Venezia Giulia, secondo il rapporto L'edilizia nell'era del post superbonus e dell'estate 2024, redatto dall'ufficio studi di Confartigianato regionale. A quanto emerge dai dati, il Friuli Venezia Giulia è la seconda regione in Italia per dimensioni delle imprese artigiane in edilizia, con una media di 3,44 dipendenti contro i 2,43 della media italiana. In testa le province di Udine e Trieste. In regione inoltre i lavori per il PNRR stanno determinando un aumento dell'occupazione nel settore stimato del 6,2% nel triennio 2023-2026. Ma il Friuli Venezia Giulia è anche tra le regioni italiane in cui le imprese del comparto costruzioni incontrano più difficoltà a trovare manodopera qualificata. È un problema segnalato dal 67,5% delle aziende della regione e la situazione è nettamente peggiorata rispetto all'anno precedente. Anche per questo il Friuli Venezia Giulia è al terzultimo posto in Italia per il tasso di variazione degli addetti delle micro e piccole imprese delle costruzioni rispetto al periodo pre-crisi. Diverse le cause al calo demografico e alla scarsa attrazione che l'edilizia ha sui giovani si aggiunge, secondo il capocategoria regionale Paolo Dri, la presenza consolidata nei cantieri di operai provenienti dall'Europa dell'Est, che le aziende stavano preparando per la naturale successione ai dipendenti che sarebbero andati in pensione. Con il fermo delle attività durante la pandemia, molti e soprattutto gli operai più specializzati se ne sono andati verso Austria e Germania e si è così perso un importante bacino di manodopera formata. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Da oggi non verranno più consegnate le tessere regionali della benzina. Chi l'ha persa o chi ha appena comprato un mezzo di trasporto dovrà per forza utilizzare il QR code per avere gli sconti sul carburante. La tessera per i carburanti agevolati non andrà per ora in pensione, continuerà a essere valida, ma le camere di commercio non ne emetteranno di nuovo. Da oggi la modalità unica di emissione delle tessere è digitale o con QR code stampato. Le card in nostro possesso funzioneranno fin quando ci saranno i lettori POS disponibili. Tutto ciò è stato fatto per evitare che il passaggio repentino al sistema digitale causi difficoltà, soprattutto per i cittadini più anziani. Questo garantirà a tutti di avere accesso al nuovo sistema, anche se non si è esperti in tecnologia. Già da un anno il sito della Camera di Commercio nella sezione carburanti dà tutte le istruzioni per il passaggio all'applicazione chiamata QR FVG Carburanti. Tante le persone l'hanno già scaricata e sempre più gestori dei distributori hanno adattato i loro sistemi per leggere il nuovo strumento. Ma niente paura, chi non lo avesse fatto potrà continuare a utilizzare la vecchia tessera. Utilizzano di più le tessere di plastica, perché l'applicazione non ce l'hanno tutti ancora. Non è facile scaricare, quindi la gente si trova in difficoltà e ovvio che è più facile la tessera. Per un po' useremo questa, poi con calma faremo tutto. C'ho l'applicazione anche, quella dal cellulare. Funziona molto bene ed è sicuramente un aspetto positivo per la regione. Con un telefono faccio tutto, non serve dire fuori nessuna carta, nessuna... Perfetto. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo al tempo, cielo coperto sulla zona montana, variabile sulla pianura, poco nuvoloso verso la costa. Queste le temperature registrate alle 11. Trieste 28 gradi, il mare quasi calmo con temperatura di 27. A Gorizia 28 gradi e mezzo, a Pordenone 27 gradi e mezzo e a Udine 27. A Tolmezzo 22 gradi, Tarvisio e Forni di Sopra 20, Piancavallo 19, su Monte Lussari e Monte Zoncolan 14 gradi e 5 decimi. Sulla costa a Lignano abbiamo 27 gradi e 5 decimi, 26 a Grado, la temperatura del mare in entrambe le località è di 26 gradi. Le previsioni oggi avremo in prevalenza cielo poco nuvoloso, sulla zona montana sarà possibile qualche breve localizzato rovescio, sulla costa soffierà brezza. Dormiva di fronte a un bar sotto un portico su un lettino da spiaggia quando a luna di notte è stata annotata dai carabinieri. È successo a Marina Giulia. A dormire sulla brandina era un'anziana signora della provincia di Udine che ai militari ha riferito di essere poetessa e scrittrice e di essersi recata a Monfalcone per rivedere i luoghi conosciuti da ragazza. Disponendo solo di una pensione minima, non era nelle condizioni di pagarsi un albergo Essendo oramai notte inoltrata, i carabinieri hanno quindi deciso di portarla in un albergo del centro cittadino e di farsi carico del pagamento delle spese. La mattina successiva l'anziana è tornata a casa. Grazie ai controlli di polizia interforze eseguiti sabato a Udine, soprattutto nella zona della stazione, è stata multata una 21enne italiana per oltraggio a pubblico ufficiale e consumo di alcolici in strada, nonostante l'ordinanza comunale lo vieti. Inoltre era in violazione dell'ordine emesso tempo fa di non frequentare Borgo Stazione. Gli agenti hanno individuato anche un 29enne afghano in violazione del DASPO sulla città di Udine e un 28enne pakistano in violazione dell'ordine di non frequentare Borgo Stazione. Un 22enne afghano ha ricevuto l'ordine di allontanamento dalla zona. L'unità cinofila della Guardia di Finanza ha trovato un totale di 85 grammi di hashish occultati da ignoti in tre diverse siepi. Il Comune di Trieste ha presentato questa mattina un progetto di riqualificazione di Piazza Goldoni. Sentiamo che cosa prevede. L'obiettivo è quello di ottenere una maggiore tranquillità grazie a un ambiente più curato e contraddistinto da un'immagine di centralità anziché di marginalità. I lavori di riqualificazione di Piazza Goldoni a Trieste, presentati oggi dal Comune, intendono infatti agire su miglioramenti delle strutture per arrivare a una diminuzione di quegli episodi di microcriminalità citati dall'assessore regionale all'autonomia e alla sicurezza, Pierpaolo Roberti, come un peso che opprime commercianti e cittadini. L'iniziativa potrà disporre di 1.050.000 euro dalla Regione grazie alla vincita di un bando collegato all'articolo 8 della legge 9 del 2023 che include più tipologie di interventi per il controllo del territorio, tra cui appunto la riqualificazione urbana. Molteplici gli ambiti coinvolti dai lavori, dall'illuminazione alle panchine, come spiega l'assessore alle politiche del territorio di Trieste, Michele Babuder. Forse il più ostico può essere quello di dare a quella zona, a quell'area, anche un patrimonio verde, quindi a fianco di quella che è l'attuale fontana. Ovviamente prevedendo quelle che sono le necessità anche di un sistema di irrigazione. L'abbattimento del muretto e la ricostruzione con una parte visibile anche dall'altro lato. In autunno è prevista la discussione del progetto in giunta comunale con inizio lavori il prossimo anno, un'iniziativa che rappresenta solo il primo passo verso un più ampio piano composto da operazioni simili anche per Piazza Libertà e Piazza Garibaldi, senza dimenticarsi di altre aree come Piazza Vittorio Veneto, in cui prosegue il piano di allestimento di un albergo nel palazzo ex ferrovie. Ancora Babuder. L'investitore aveva richiesto un permesso in deroga, l'ha ritirato e continueremo invece nella condivisione degli interventi che riguarderanno proprio opere di urbanizzazione, anche nel caso di Piazza Vittorio Veneto inerenti alla Fontana del Giovanile, ma anche alle due fontane laterali che sono quelle che abbisognano di un maggiore intervento. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il Covid continua a circolare, le infezioni sono in crescita. In regione il numero di casi registrati tra il 25 e il 31 luglio è 207, un numero sicuramente sottostimato visto il crollo dei tamponi che colloca il Friuli Venezia Giulia al sesto posto dopo l'Emilia Romagna e prima del Lazio. Sentiamo il servizio da Roma di Francesca Cosentino. Il caldo torrido e le alte temperature di questo periodo non impediscono al Covid di circolare ancora nel nostro paese. Gli ultimi dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità parlano solo nell'ultima settimana di 17.000 nuove infezioni, con un aumento del 26% rispetto alla settimana precedente. A causarle la variante KP.3 della famiglia Omicron, molto contagiosa, ma sicuramente anche molto meno pericolosa rispetto a quelle precedenti. A registrare il maggior numero di casi la Campania, più di 3.000, seguita da Lombardia, Lazio, Puglia e Veneto. Le regioni invece con meno infezioni, Marche, Molise e Basilicata, le province autonome di Bolzano e Trento. Gli esperti spiegano che non si tratta di un virus stagionale, ma di un'infezione che muta ogni 4-6 mesi e gli spostamenti dei turisti in questo periodo facilitano la diffusione del virus, che procura mediamente raffreddori di lieve entità. Attualmente le persone ricoverate sono poco più di 1.800 e quelle in terapia intensiva 55, quasi tutti soggetti molto anziani e con altre patologie. La gran parte della popolazione ha infatti acquisito una sorta di immunità ibrida, data dal virus contratto e dalle vaccinazioni eseguite. Tuttavia gli scienziati consigliano, di fronte a un prolungato raffreddore, di procedere con un tampone e di astenersi dal visitare le persone anziane e fragili. A Codroipo si può visitare una mostra di carte da gioco storiche utilizzate in Friuli Venezia Giulia. Al Museo Civico delle Carrozze d'Epoca di Codroipo, nell'ambito dell'iniziativa Solo Giochi, sino al 18 agosto è possibile ammirare una mostra dedicata alla carta da gioco del territorio friulano, alcuni mazzi di Trevisane, tra cui importanti mazzi storici, le triestine rappresentate da un mazzo di Pignalosa del 1930 fino alle carte triestine di Briscula stampate nel 2021 per la parte friulana, la ristampa delle carte udinesi di Bolognatto operata dai civici musei di Udine nel 1955, ai più recenti e non standard mazzi delle carte sappadine e montarane. Suami Donè, presidente Associazione Settebello. Abbiamo organizzato una mostra con 25 mazzi, divisa in tre parti, potremmo così dire, la parte delle trevigiane, delle triestine e delle carte udinesi o friulane, che comprende in realtà diversi mazzi frutto di rielaborazioni molto moderne. Andrea Piovesan, storico. È molto importante, molto interessante quello che sta succedendo da alcuni anni, degli ultimi 5-6 anni, perché c'è una grande rinascita, vitalità delle carte da gioco in Italia, non solo qui, che dà origine a tutta una serie di mazzi, non solo pensati e concepiti per giocare, ma anche solo come espressione artistica. Tra i vari pannelli esposti ci si imbatte anche nelle graisane, disegnate dal maestro Dino Facchinetti. Grado è un'isola, voi sapete, e perciò nell'isola non troviamo solo che pesce e pescatori, troviamo anche l'origine dell'isola, la sabbia, come si forma la sabbia. E tutto questo colore, tutta questa forma, queste idee, questi soggetti hanno dato l'idea alle graisane, cioè come omaggio non solo a Grado, ma alle graisane nel senso assoluto. Codroipo, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora vi proponiamo una breve intervista all'attrice Elena Sofia Ricci, reduce dalle riprese in Friuli del secondo film tratto da un romanzo della scrittrice friulana Ilaria Tutti. Con tante fiction abbiamo fatto conoscere Modena, Fabriano, Assisi, no? Ci sono queste lunghe serialità che si sono spostate, per esempio, e nel caso dei romanzi di Ilaria Tutti, Fiori sopra l'inferno e Ninfa dormiente, che andrà in onda il 28 ottobre su Rai 1, è il Friuli che raccontiamo, e questo Friuli meraviglioso di queste montagne così anche magiche, così anche inquietanti. Quest'anno abbiamo lavorato duramente perché eravamo, mentre Fiori sopra l'inferno era aprile-maggio, anzi la rincorrevamo, la neve che spariva, quindi invece quest'anno siamo stati travolti dalla neve, dal freddo, dal gelo, su nella parte anche delle trincee, delle guerre, dove mentre eravamo lì diciamo ma questi poveri soldati d'inverno non sono morti di guerra, sono morti di freddo. Medaglia d'oro per l'oro dei patriarchi e argento per il rosso dei patriarchi, i due vini più rappresentativi dell'azienda agraria universitaria Antonio Servadei dell'Università di Udine, hanno conquistato i gradini più alti del podio al concorso enologico tra Atenei Europei International University Wine Competition di Maribor. Per il terzo anno consecutivo l'Ateneo Friulano ha visto premiati i suoi vini ottenuti dalla miscela di alcune varietà di viti resistenti selezionate e coltivate dall'azienda agraria. L'iniziativa mira a rafforzare la cooperazione tra gli Atenei europei nel campo dell'agricoltura e delle scienze della vita e a trasferire conoscenze, idee ed esperienze. Passiamo alle Olimpiadi di Parigi, ciclismo su pista. È il giorno del friulano Jonathan Milan, medaglia d'oro alle scorse Olimpiadi di Tokyo. C'è grande attesa, infatti, per le qualificazioni dell'inseguimento a squadre in programma alle 17:25. Con Milan gareggeranno gli stessi compagni di Tokyo, Lamon con Sonny e Ganna, che una settimana fa ha conquistato la prima medaglia italiana di queste Olimpiadi parigine, l'argento nella cronometro individuale su strada. Il riservista della squadra è il 22enne di Azzano Decimo, Manlio Moro. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Francesca Terranova, in regia per la parte tecnica Caterina Cabrelli, ha collaborato in redazione Samantha Gon. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto.